maledissi e il cuor non batte, volo lo tempo, grazie nel giorno che il corpo ti ha gusto d'avere, ti ha gusto d'avere. Lo ioramo, ti rodi e mi di non batte bene. Io pur vidi, Musetta, Mimì, l'hai vista, oh, quanta, era in carrozza vestita come una regina. Viva del non contento, un giardo si strugge d'amor, lavoriamo, lavoriamo. Che pena infame, che infame pena.